Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. 17 dicembre 2012. Agata è nata questa notte. Scrivo quel che ricordo delle emozioni che ho provato a distanza di qualche settimana. E già mi sembra una notte lontana, dai contorni un po' indistinti. Mi chiamo Claudia Gandolfi, vivo a Genova, ma sono lombarda di origine. Lavoro nel settore dei musei, sono sposata da pochissimo e con Davide abbiamo una bambina che appunto si chiama Agata. È la settimana delle nascite questa, nel senso che lunedì, era lunedì giusto? Lunedì abbiamo cominciato la settimana con un racconto, con una storia di un giovane padre, di un padre che stava per diventare padre, di un uomo che stava per diventare padre. E oggi chiudiamo la settimana con questa puntata, con questa storia, che è la storia di Claudia, che racconta proprio quel momento, il momento in cui dopo 9 mesi lo aspetti e succede. Lo aspetti insieme al tuo compagno o al tuo marito, però immagino che sia molto diverso per la donna e per l'uomo. L'uomo sostanzialmente ti porti in ospedale, poi sta un po' lì ad aspettare. Tu invece sei proprio protagonista attiva dell'azione, fino a che, probabilmente fino al momento della nascita. Poi appena nasce il protagonista diventa lui o lei che è uscito dalla tua pancia. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08 minuti di un venerdì qualunque, 17 di maggio, mica tanto qualunque, ma il 13 che... È un venerdì qualunque, 17 di maggio 2013, appunto, incredibilmente è uscito il sole a Milano. Lo dico perché ormai le condizioni meteorologiche di questa città sono la cosa che più influisce sull'umore dei suoi abitanti. Questa è la storia di Claudia. Due premesse. Claudia la conosco. La conosco bene perché è un'amicizia, una fortunata amicizia acquisita, diciamo così, poi vi spiego meglio il perché. È una cosa che accade, che degli amici ogni tanto mi mandino delle storie, purtroppo lo dico apertamente un po' a tutti, non offendetevi se non le mando tutte in onda, le scelgo quelle che, come accade di solito, hanno senso per questo programma. Appunto, Claudia la conosco. La seconda cosa invece che è una sorta di premessa è che di storie come quelle di Claudia ne sono arrivate diverse, ovviamente, perché quando facciamo la richiesta che ha a che fare con questo programma, e cioè mandateci una storia che racconti qualcosa di voi, è chiaro che il parto sia un momento topico della vita di una persona, no? Uomo o donna che si diventi madre soprattutto, ma anche se si diventa padre, e quindi ne sono arrivate diverse, ne abbiamo credo già lette due. Questa però è un po' particolare perché è una sorta di radiocronaca precisa, passo per passo. Si è svolto tutto con una certa languidità, direi. Il modo in cui Claudia lo racconta è un modo sereno, punto per punto. Poi, vabbè, insomma, quanto sia stato sereno per lei, questo non lo so. Però il racconto ha davvero un tono quasi distaccato, che è piacevole e godibile proprio per il modo in cui tutto sembra accadere in maniera naturale. Oggi è proprio con questo racconto che io oggi vorrei augurare un buon termine di gravidanza a tutte le donne che sono in attesa e a cui chiedo di scrivere al 349-238-6666. A che mese siete? Anzi, settimana, giusto? Si sanno le settimane. A che settimana siete? Come è successo? Come è successo lo posso immaginare. Però, che cosa vi aspettate? È un lui o una lei? Il figlio, intendo dire. Che cosa vi aspettate da lui o da lei? Cosa vi aspettate da voi? Quali sono le vostre paure? Insomma, se siete incinta e siete qui, 349-238-6666. Io mi ricordo di questo amico pisano, il Chiatto. Non ricordo mai come si chiamasse di nome. Però il Chiatto, che tra l'altro in toscano ha un significato diverso da quello comune. Perché Chiatto di solito è uno un po' piazzato fisicamente. Invece lui non era per niente così. Insomma, il Chiatto aveva la compagna che era incinta e un giorno gli dissi, non parlava tantissimo il Chiatto: Chiatto, che cosa ti aspetti? Come va? Questa cosa che diventi padre, cosa pensi? Cosa ti aspetti? E lui mi rispose: bah, speriamo si vada d'accordo. 349-238-6666. Se siete donna, siete incinta e sta per arrivare, raccontateci qualunque cosa vogliate, dove siete, cosa fate, e cosa vi aspettate da lui o da lei. Questa qui è la storia di Claudia. Per pranzo la domenica avevamo mangiato tagliatelle fresche con carciofi e seppie, baccalà al nero su crema di peperoni gialli, vino bianco Valdobbiadene e dolci di Kleinguti, una spasticceria di origine svizzera da secoli nel centro storico di Genova. portati da Simone. Avevamo parlato con lui di amore, di famiglia e di voglia di paternità. Nel pomeriggio un pisolino e verso le 8 mi stavo preparando per andare al cinema a vedere Moonrise Kingdom di Wes Anderson, quando ho sentito un liquido caldo colare lungo le gambe. Si erano rotte le acque, esattamente nel modo in cui c'è scritto sui manuali. All'inizio ho pensato che fosse un falso allarme, o forse lo speravo, perché non sapevo di essere pronta. Il flusso però si intensificava e quindi ho svegliato Davide. Si fanno molti corsi, si seguono molta teoria, ci si prepara, però non è una cosa semplicissima da fare, in effetti, poi a conti fatti, quindi non sapevo se ce l'avrei fatta o comunque se in quel momento ero fisicamente abbastanza pronta da farcela. Poi in realtà ti rendi conto che quando ci sei ce la fai per forza, lo devi fare, lo fai. Partiamo per l'ospedale di slancio ma con lentezza, in una serata silenziosa e ovattata, emozionati e un po' intontiti. Il reparto è calmo, poche persone nei corridoi. Al monitoraggio tutto normale, il cuore della bambina batte, si sente qualche calcio e io ho la pressione un po' alta per l'agitazione. Davide mi racconta una barzelletta, ora non me la ricordo ma funziona, rido e la pressione si abbassa. Il liquido amniotico continua a defluire ma ancora niente contrazioni, quindi io mi metto a letto e Davide torna a casa. Verso mezzanotte le prime contrazioni, abbastanza ravvicinate, non troppo dolorose. Mi dicono di richiamare Davide, lo sveglio di nuovo e gli dico di tornare qui, che ci siamo. Borbotta qualcosa. Mando un messaggio alla mia amica più cara perché mi pensi forte, nonostante l'ora. Sala parto, tutto verde azzurro, accogliente ma non troppo, caldo ma non molto, penombra. Dilatazione da 1 a 5 in poche decine di minuti. La bambina vuole uscire, ma non ha ancora un nome e quindi rimando indietro il suo piccolo minuscolo braccialetto vuoto. Lo faccio un po' a malincuore. Ancora contrazioni, sopportabile. Arriva Davide trafelato. Come la chiamiamo questa bambina? Dimmelo. Chiamiamola Agata. E finalmente possiamo riempire quello spazio bianco sul braccialetto. Intorno a noi parecchia gente. Oltre a mio fratello Marco e alla sorella di Davide, Chiara, in spirito, ci sono le due giovani ostetriche, l'energica Rosanna, poi la neonatologa, il ginecologo e l'infermiere. Tutti molto indaffarati a tratti o intorno a me e immobili. Le contrazioni aumentano di intensità. Niente epidurale. Rosanna, l'ostetrica, mi dice, e le credo, che stiamo procedendo molto rapidamente. Non ne vale la pena. Io mi sento investita di una missione e parto, tranquilla e determinata. 10 centimetri. Quando te la senti, comincia a spingere, mi dice. Aspetta ancora un po'. Posizione supina. Credevo, preparandomi a questo momento, che accovacciata sarebbe stato più semplice per via della forza di gravità, ma mi tremano le gambe e non riesco a sostenere nemmeno il mio peso. Torno sul lettino alla vecchia maniera, sarà che sono retro nell'animo. Ci penso ancora un attimo e poi comincio a spingere. Mi sento fuori tempo, stonata, mi sembra di non fare progressi. Davide c'è, mi tiene la testa e cerca di farmi prendere il ritmo. Si vede la testa, sento che mi sussurra all'orecchio. Brava. Piange appena. Io sono felice. Sto facendo quello che va fatto. Fa male, ma va bene. Per un attimo, ma è solo un attimo, mi sembra di non farcela. Chiudo le gambe. Voglio la mamma. Sì, voglio andare a casa. Per una frazione di secondo ho pensato effettivamente non ce la posso fare ed è stato appunto il momento in cui mi sono un po' richiusa, ritratta, però in fondo nonostante faccia veramente molto male, tu sai che arriverà in fondo e che in qualche modo questa cosa la devi fare, la vuoi fare e sei felice di farla. Rosanna giura che ci siamo, un ultimo sforzo, ora ci credo davvero, ed eccola. Tra le mie gambe spalancate la sua mano aperta, 5 dita grandissime che mi salutano. Questa è la prima immagine che ho di lei. Mi sollevo su un gomito e vedo il suo viso, rotondo. Penso a mio padre, gli assomiglia. Agata urla, sta bene. Davide esce, si rinfresca la faccia e si riprende dalla vista dei bisturi. Gli uomini hanno lo stomaco debole, a quanto pare. Ma io non me ne rendo quasi conto perché sono stordita, tremo ancora. Sono esausta e non so se avrei avuto la forza di spingere ancora. Non riesco a tenere nemmeno le gambe ferme. Sono soddisfatta e tendo l'orecchio per capire quando riporteranno qui Agata, che intanto l'hanno portata a lavare. Riprendo fiato. Finalmente rientra Davide. Ci guardiamo emozionati, un po' ansimanti, felici. Ed eccola, che torna, la nostra Agata. Non piange. Imbacuccata come un involtino primavera, con quel cappellino improbabile che le ho comprato qualche giorno fa, perché non abbia freddo alla testa. L'infermiera del nido la appoggia delicatamente sulla mia pancia. Lei sgrana gli occhi miopi e cerca un capezzolo da rosicchiare. E ce ne stiamo così, soli, noi tre, a metabolizzare questa emozione così grande, che non sembra neanche vera. Ve lo dicevo prima, io Claudia la conosco. Lei è amica molto cara della mia ragazza e quindi è una di quelle amicizie che si portano in dote i fidanzati e le fidanzate. A volte va bene, a volte no. Con Claudia e Davide per fortuna è andata molto bene, anche se lei ogni tanto mi tratta un po' male, ma credo sia una dinamica di solidarietà amicale femminile tra lei e la mia ragazza, appunto. Con Claudia è successo quello che mi è successo anche con un altro amico, cioè sapeva che lavoro faccio e un giorno, senza che io le chiedessi nulla, mi ha mandato questa storia. Ora, io sono proprio in quell'età in cui gli amici si sposano oppure fanno dei figli e tu un po' te ne stai a guardare, un po' stai lì a sentire i loro racconti riguardo a matrimoni da organizzare o figli da crescere. Due generazioni fa queste cose succedevano tra i 20 e i 30 anni, oggi succedono tra i 30 e i 40. Colpa forse dei mutui troppo alti o della voglia di bere spritz tutte le sere fino ai 35, non lo so, ma tant'è. La cosa molto strana è stata che la nascita di Agata è stata pressoché simultanea alla nascita del figlio di un altro amico molto caro, anche se molto lontano, vive in Germania. Si chiama Pietro. E quello che è accaduto è stato che Pietro, dopo avermi dato la notizia, è venuto a Milano qualche giorno per lavoro e mi ha raccontato la sua storia del parto, a breve distanza da quella di Claudia. Vista dagli occhi di un uomo, ovviamente, ma soprattutto completamente diversa da quella di Claudia. Se nella storia di Claudia, appunto, vige un'assoluta normalità e quasi naturale conseguenzialità delle cose, a partire dalla cena a base di baccalà al nero di seppia e bianco di Valdobbiadene, per arrivare fino al taglio del cordone ombelicale, ecco invece nella storia di Pietro tutto sembra accadere troppo in fretta, rocambolescamente. Quindi fate una cosa, tenete a mente quella linearità degli eventi di Claudia e ora sentite quello che è accaduto a Pietro. È sera e siamo a Colonia, dove Pietro vive insieme a Barbara, la sua compagna tedesca. Hanno un figlio, Victor, e aspettano un secondo. Tutto è tranquillo quando Barbara ha le prime avvisaglie. Lei però dice a Pietro che per il primo hanno aspettato 12 ore, quindi di non allarmarsi. Hanno deciso di far nascere il bambino in una casa delle nascite, con delle ostetriche e non in ospedale. Quindi Pietro chiama l'ostetrica al telefono per avvisarla che ormai ci siamo e lei dice che va bene, non c'è fretta, si vedranno direttamente alla casa delle nascite. Non passano pochi minuti che Barbara, in bagno, urla fortissimo. Pietro la raggiunge, lei non si regge in piedi. Lui allora chiama l'ostetrica e lascia un messaggio alla segreteria, ma sbaglia il numero di telefono. Intanto accompagna Barbara in camera da letto, ma quando lei si spoglia, lui si trova praticamente la testa del bambino tra le mani. Chiama allora la vicina di casa, che è neurologa, ma questo non è certo il momento di formalizzarsi sulle specializzazioni mediche. Intanto chiama anche il pronto soccorso e di nuovo l'ostetrica, finalmente fa il numero giusto. La neurologa si avvicina a Barbara e mentre prende la testa del bambino tra le mani, nei suoi occhi Pietro dice che vede passare le ormai lontanissime lezioni di ostetricia prese anni prima all'università. Lui rimane a guardare finché la vicina neurologa si decide e tira fuori il bambino. Quando ce l'ha in mano, lei si gira e lo passa a Pietro, che guarda questo fagottino sporco e silenzioso e non sa cosa farci. L'unica cosa che sa è che dovrebbe piangere in teoria. E invece sto bambino non piange. Anzi, mentre lo tiene in mano, fa un respiro e si accascia su se stesso. Preso dal panico, Pietro urla qualcosa nel suo tedesco alla neurologa, che lo prende in mano, gli dà qualche pacca sulla schiena e finalmente il bambino scoppia a piangere. E mentre Pietro guarda il bambino, Barbara è sul letto e la neurologa non so cosa stia facendo, suona il campanello. Sono le ostetriche e l'ambulanza, arrivate tutte insieme. Your voice is too loud. Non c'è come dire che vuoi messaggi solo femminili, solo di donne, che dai là e dai la stura per far arrivare i messaggi maschili, che spesso sono anche un po' piccati. E ha ragione Tiziano quando dice che non succede il contrario. Quando chiedi messaggi maschili non arrivano messaggi femminili che intervengono sul tema. 349-238-6666. Siete donne? State aspettando? Che cosa sta succedendo? Il 22 maggio finisce il tempo, non vedo l'ora di vedere la mia Laila. 35 settimane oggi, arriva Leone. Ha voglia, ma 35 settimane oggi, Francesca, sono... Scusa, 4, 8, 12, 16, 25, 35 settimane sono... Manca... No, 35... Ah, 35 settimane oggi! Cioè, questa è la 35esima settimana, perdonami, io credevo. Tra 35 settimane, mi sembrava un conto un po' ardito. 349-238-6666, tutto perché esattamente il 17 dicembre del 2012... nasceva Agata. Pronto, Claudia? Ciao Matteo, sei un po' scarso con i conteggi. Come? Delle settimane. Figurati, si diceva prima, no? Giusto, che ogni tanto giustamente le amiche della fidanzata trattano male il fidanzato, ma infatti, ho dato subito. È solo una questione, esatto, di amore amicale. Come sta Agata? Bene, bene, dorme col suo papà. Ok, Claudia, torniamo invece a quando. Adesso, scusami, a proposito di conteggi, cosa sono? 5 mesi, giusto? Oggi, 5 mesi oggi. 5 mesi oggi, perfetto. Torniamo a... facciamo 6 mesi fa, va, quando mancava più o meno un mese. Sì. Che cosa passa? Com'è la giornata di una... Perdonami, faccio domande molto banali, lo so. Ma sono un maschio e non ho mai avuto un figlio. Che cosa succede nella testa di una donna che a cui manca pochissimo, 4-5 settimane, quando si sveglia la mattina? Cioè, hai una giornata normale oppure pensi per la maggior parte del tempo a quello? La cosa strana che succede secondo me è che fino, non so, appunto a 5 settimane prima non ti rendi conto, cioè ti fai tutti i tuoi esami eccetera, poi da un giorno con l'altro succede qualcosa per cui cominci a capire e ti senti, passi proprio in un'altra dimensione, perché è molto diverso essere incinta e poi avere un bambino, cioè questa non è male come osservazione, effettivamente è bello, essere incinta, sei ancora in due quando c'è un bambino, esatto. Sei in tre, già questo mi sembra una differenza. Ma proprio mentalmente ti cambia tantissimo, diventi proprio un'altra persona, parecchio. Cioè, ma quindi tu sei per la teoria secondo cui la gravidanza e la maternità acuiscono delle parti del carattere o proprio cambi, come dici tu? Più sul cambi forse, sono più per, si avvertono grossi cambiamenti, ma non strutturali, nel senso che è chiaro che sei sempre tu, però parecchie cose che ti colpivano prima non lo fanno più. E... c'è un ordine diverso, insomma, alle cose intorno a te sostanzialmente. Sì, anche questo è banale. Però, insomma, alla fine anche partorire è un po' banale, è la stessa roba da millenni, sì, quindi esatto, di brava, quello parliamo. Ce la potreste fare anche voi. Esatto. Questo non lo so. Claudia, un'altra cosa prima di lasciarti. Certo. Tu quando hai... cioè, il tuo racconto è molto lineare, no? Sembra che sia andato tutto bene. È stato veramente così lineare il parto? È stato così tranquillo? Sì, no, perché sono stata fortunata. Sono stata molto fortunata, è andata veramente così. E infatti Agata avrà un regalo speciale... al compimento, esatto, del primo anno, perché è stato veramente facile relativamente, ma insomma un parto bello. Claudia, ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata. Buona giornata, ciao, grazie, ciao. 349-238-6666. Sento il mio piccolo Marcel muoversi nella pancia, attendo il momento in cui incontrerà il mio sguardo, mamma Paola, e c'è subito un po' di film horror e un po' di poesia in questi messaggi. Voi siete qui. È un autoscatto quello di Claudia. Direi che si vede dal fatto che è un autoscatto allo specchio, quindi che è un genere diverso. L'autoscatto di solito è con la mano tesa di fronte alla faccia, e poi c'è l'autoscatto allo specchio, quello per cui scatti la foto e si vede te e la macchina fotografica. È quel genere lì. Claudia si sta tenendo con una mano i capelli sulla testa, ha uno zaino sulle spalle, ma è appena si vede appena. Quello che si vede è che intorno a lei, immagino sia un'opera d'arte, immagino di arte contemporanea, c'è una sorta di infinita ragnatela di fili. Parto, sostantivo maschile. L'espulsione o l'estrazione del feto e degli annessi fetali dagli organi genitali femminili dal punto di vista fisiologico e medico. Per metonimia, il prodotto del concepimento. figurativo, prodotto della mente o di un'attività spirituale, oggi specie con intonazione ironica o scherzosa o con allusione a inconsistenza o falsità. Etimo, latino partum, derivato di parere, partorire. Data, fine secolo XIII. Radio 24 ogni tanto promuove delle giornate tutte dedicate a un tema. Il tema di solito è un tema che ha a che fare con l'attualità e che ha un senso al punto da convocare gran parte della programmazione del palinsesto di quella giornata su quel tema. Se siete ascoltatori fedeli di Radio 24, come spesso accade, Radio 24 è una radio che ha quella formula lì, che se ti piace questa radio te l'ascolti dalla mattina alla sera, e questa è un po' è una grande fortuna ed è un po' la filosofia di questa radio. Quindi se avete questo tipo di affezione nei confronti della radio, sapete che questa giornata appunto non è un giorno qualunque, perché è uno di quei giorni che definiamo Radio Days. Radio Days di oggi, cioè la giornata della radio di oggi, è dedicata alla violenza contro le donne, a fermare la violenza contro le donne che purtroppo che non finisce mai in realtà, e viene fuori saltuariamente qualche dato che è davvero sconfortante, perché si parla di una media, sono delle medie calcolate, come tutte le medie lasciano il tempo che trovano, però si parla di una donna che viene uccisa ogni due giorni in questo paese. Noi riceviamo un sacco di storie, le più disparate. Poi, ahimè, decidiamo noi quali storie mandare in onda, lo facciamo io e Tiziano, è proprio un lavoro che facciamo noi, e lo decidiamo in base a delle regole che ci diamo noi. Non ci autocensuriamo, è quello che cerchiamo di non fare, però facciamo delle scelte in base a mille parametri, e uno di questi è anche la capacità di gestire alcuni argomenti, capacità che banalmente io delle volte io non credo di avere, insomma non per tutti gli argomenti, non sono un giornalista, non sono preparato su certe cose, e quindi cerchiamo di raccontare delle storie senza dare dei giudizi, bla bla bla, questa cosa ve la racconto sempre e mi fermo qui. Quando c'è stato detto che la giornata di oggi era dedicata a questa, noi abbiamo ripescato nella memoria una storia che io ricordo di aver detto forse questa io non riesco a raccontarla, e invece l'abbiamo ripescata. Io non so che cosa passi nella testa di una donna che viene picchiata da un uomo e continua a stare con quell'uomo, non lo so, probabilmente non è nemmeno giusto che io lo capisca, o forse non ha senso che lo capisca. Questa storia di Ilaria è una storia molto particolare, è la storia di una donna che vive per strada, o che lo faceva, che sta con un uomo che lo picchia, che la picchia e che non è in grado di lasciare. La storia di Ilaria inizia dal risveglio della mattina e finisce fortunatamente con un gesto liberatorio. I rumori della strada ti svegliano presto, soprattutto se dormi in un parco in pieno centro cittadino. Apri un occhio e vedi il grigio del cemento a 3 centimetri dalla tua faccia. Subito dopo lo senti morderti le ossa, freddo e duro. Poi le effusioni del tuo cane ti ricordano che vale la pena stare al mondo. Vita da panca bestia. Me la sono scelta. Mi piace. Mi piace il nero sotto le unghie. Mi piace ricoprirmi di latta per sentirmi più grossa. Mi piace vivere in branco, senza orari, seguendo solo le regole della strada. Mi piace sentirmi un pirata. All'inizio però non era così. All'inizio era il dolore a spingermi a soli 13 anni fuori di casa. Cercavo ossigeno, cercavo una famiglia che non ubbidisse alle regole degli adulti. Tutti i giorni scappavo al parco, unico luogo in una città grigia dove puoi abbracciare un albero e sentire il rumore dell'acqua. Era come il richiamo della foresta, non potevo stare lontano da quel luogo e dai suoi abitanti. Max ne era il re. Lui brillava su tutti e me ne innamorai. Lui era grande, lui era forte, tutti lo rispettavano e io ero la ragazza di Max. La prima volta che mi picchiò non fu la rabbia ad assalirmi, ma lo stupore. Rimasi ingessata, la testa mi si svuotò e poi riprese a correre alla velocità della luce, senza permettermi di distinguere i pensieri che la attraversavano. E infine pensai che era stata colpa mia. E poi, dopo vederlo pentito, era come mandare giù uno sciroppo caldo e dolce. Le sue lacrime erano la moneta di scambio della nostra complicità, la complicità tra vittima e carnefice. Lui era la mia vita, quella che avevo scelto. Era il mio uomo e tanto mi bastava. Non c'era posto per nessun altro e il vuoto che mi faceva intorno con la sua gelosia in fondo mi andava bene. Lui era la mia famiglia, ma in questo trip c'ero solo io. Non ci misi molto a capire che ero di nuovo sola. Ero piccola, ma non scema. Ma a quel punto, invece di mandarlo a quel paese, rimasi. In fondo al mio cuore, senza che me ne accorgessi, ero sicura di meritarmelo, un uomo così. Stavo immobile per la maggior parte del tempo. Cercavo di essere invisibile. Cercavo di non fare nulla, in modo da non dargli un pretesto per picchiarmi. Ma ormai non ce n'era più bisogno. Eravamo andati ben oltre. Ormai mi bastava respirare. Quel giorno il primo pugno arrivò mentre camminavamo sul marciapiede di una strada del centro. Il motivo non ha nessuna importanza, anche perché non c'era. Mi piacerebbe raccontare che da quel giorno non lo vidi più, ma non andò così. Rimasi con lui. Quando si permette a qualcuno di calpestarti fino a quel punto, è difficile ricostruirsi. I cocci sono tanti e si è soli. Perché questo tipo di persone ti creano il vuoto dentro e intorno. Gli amici da tempo si sono stancati di cercare di dissuaderti e ti hanno lasciata nel tuo brodo. Col tempo però ho raccolto le forze e giorno dopo giorno mi sono guardata dentro con spietata coerenza. Un giorno alzai semplicemente la testa e nel mio campo visivo lui non c'era più. Chiudiamo questa settimana, la settimana di metà maggio, la settimana che una volta la passavamo al Salone del Libro, invece passiamo a casa a Milano. La chiudiamo con una notizia che può interessare quelli che sono affezionati a questo programma, ma soprattutto quelli che hanno voglia di condividere una serata tutti insieme, quelli che hanno voglia di venire qui gratuitamente e sentire alcune delle storie che sono state raccontate e di stare un po' insieme e di farsi una festa sostanzialmente. Segnatevi questa data, giovedì 27 di giugno 2013, il live di Voi Siete Qui, l'abbiamo deciso poco fa. Settimana prossima vi diremo nuove indicazioni su, come al solito, come iscrivervi. Tutto gratis, tutto qui a Radio 24, giovedì 27 giugno 2013, il live finale di Voi Siete Qui. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Filippo Aureggi. Grazie soprattutto a Claudia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Voi siete qui.